America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti in America 24 da New York, Mario Platero. Ecco, avete sentito l'apertura di un evento organizzato ieri da Bloomberg a New York, dedicato agli investimenti in Italia. How to invest in Italy, investment opportunity, impact, l'impatto che un investimento straniero può avere in Italia, per l'Italia, ma anche naturalmente per gli investitori. Vari panels, incontro guidato da Carlo Calenda, vice ministro per lo sviluppo economico. We are investing very much with the most important distribution. Ecco, avete sentito Calenda che introduce l'evento, come dicevo, un dibattito a tutto campo su riforme, su investimenti potenziali, sulle possibilità che oggi offre l'Italia, e devo dire che ho appreso un dato piuttosto interessante, cioè per ora una cifra informale, ma parlando con alcuni funzionari al seguito sembra che gli investimenti siano aumentati, raddoppiati addirittura, dai 15 miliardi del 2014 addirittura 30 miliardi di euro nel 2015. Con Calenda c'erano anche Claudio Costamagna, presidente di Cassa Depositi e Prestiti, Eric Nielsen, capo economista di Unicredit, che ha dato un po' uno sguardo d'insieme sull'economia italiana, Andrea Illi, dell'omonima casa produttrice di caffè, David Joyce di General Electric Aviation, che ha annunciato tra l'altro un investimento importante in Italia. And the first thing is the public debt. Ecco, sempre qui da Bloomberg sono con il vice ministro Carlo Calenda. Buongiorno vice ministro. Buongiorno, buongiorno. Allora, insomma, una presentazione, Invest in Italy, le promesse italiane, abbiamo visto anche questa iniziativa con la General Electric, avete firmato un memorandum. Ci racconti di questo intanto, sì. Qual è la storia? Beh, prevede un investimento aggiuntivo di 200 milioni di euro circa tra centri di ricerca e produzione in tre regioni italiane, cioè Puglia, Piemonte e Campania. General Electric Avio, diciamo Aero Avio, è un grande investitore in Italia, è un'azienda leader nel mondo, italiana, e stanno sempre di più facendo l'Italia una base per le turbine di nuova generazione. Siamo molto contenti, è venuto qui anche come testimonial di cosa vuol dire investire in Italia. Ecco, più che di promesse, io quello che ho cercato di fare oggi è far vedere cosa abbiamo fatto e non dargli un giudizio bene o male, quello spetta agli investitori, non spetta a me darlo. Ma in termini concreti noi abbiamo una grande concorrenza, perché tutti vengono un po' in America dicendo venite a investire da noi. Ecco, lei che cosa ha portato, che cosa, perché so che ha avuto degli incontri, sì, poi ieri mattina con investitori anche one to one, quindi che, intanto che mood e poi che cosa ha proposto? Beh, la value proposition, diciamo, per noi è stata questa. Noi abbiamo oggi una struttura di imprese che sta facendo molto bene in termini di export, ha bisogno di capitale di crescita e per un investitore anche opportunistico è una grandissima possibilità. Occorre però facilitare il compito di ingaggiarsi tra di loro, cioè tra la necessità di capitale che hanno le medie aziende italiane e la disponibilità a investire. Il problema della disponibilità a investire in Italia è proprio una cosa che non c'è, cioè in tutti gli incontri che abbiamo avuto, individuali o meno, oggi l'interesse verso il paese è enorme, anche perché le alternative, altre alternative, vedi Cina, Far East, si stanno facendo molto più sottili. Quindi il tema è nostro, essere capace di dargli dei pezzi di carta veri su cui poter investire, dei dossier su cui poter investire. Ecco, lei ha detto una cosa, a un certo punto ha detto, beh, insomma, qualcuno può preoccuparsi perché poi quando vengono gli stranieri a investire in Italia, qualche volta sui giornali si dice, ecco, ci rubano tutto, ci portano via i gioielli preziosi. Ha cercato di rassicurare, di dire, no, il capitale straniero da noi è apprezzato. Ecco però che il suo stesso governo, in un settore, direi, chiave, perché è quello delle telecomunicazioni, che guarda al futuro, quindi la banda larga su cui c'è molta polemica, ha frenato un po' su quelle che possono essere iniziative straniere. Mi riferisco, abbiamo fatto un articolo su 24 Ore qualche giorno fa, una società americana che si chiama Linkem, che ha investito in Italia centinaia di milioni di euro, che ha dato occupazione, ha fatto quello che Renzi chiede di fare, eppure poi non trova una sponda e anzi ha come l'impressione di trovare dei freni, perché il Ministero dell'Economia ha detto ma su questo ci occupiamo noi, investiamo 4 miliardi quando questi magari ne investono molto meno. Ecco, qual è la sua risposta a queste persone? La mia risposta è che ho incontrato i due principali investitori in Linkem che non manifestano questo problema, cioè quello che dicono è loro hanno un business model diverso da quello della fibra, peraltro secondo quello che dicono di estremo successo. Io non ho difficoltà, gli ho detto che per me Linkem è un'azienda italiana su cui io sono a loro totale disposizione per dargli il supporto, non hanno detto di soffrire di alcuna discriminazione, hanno bisogno di avere un contatto col governo italiano come giusto che sia, ma al momento non sono tra gli investitori che hanno problemi, sono investitori molto contenti, potenzialmente possono promuovere altri investimenti in Italia perché le due società finanziarie che hanno investito in questa azienda sono molto grosse e molto significative. significativo di incontrare. Abbiamo incontrato entrambi. Abbiamo anche Claudio Costamagna, presidente Cassa Depositi e Prestiti. Buongiorno. Buongiorno. Ecco, sempre in tema, restiamo sul tema comunicazioni e banda larga. Andremo avanti secondo lei, perché in effetti è un settore chiave. Per esempio, un'azienda, una società, una finanziaria come la vostra è in grado di fare da sponda, per esempio, a gruppi come questo americano, che così si muovono un po' in modo autonomo senza magari avere troppa guida? Dunque, noi, per quanto riguarda la banda larga, è qualcosa di essenziale e va fatto. È un'infrastruttura. Noi, il nostro core business è finanziare l'infrastruttura, per cui chiunque ci porti un progetto di investimento nella banda larga in Italia, noi siamo prontissimi a aiutarli a finanziare e a fare tutto quello che dobbiamo fare. Questo per quanto riguarda Cassa Depositi e l'infrastruttura banda larga. Poi, dentro Cassa Depositi esiste il fondo strategico, esiste F2I, i quali sono i principali azionisti di una società che si chiama Metroweb, che fa della fibra e della banda larga il proprio business, per cui noi dobbiamo cercare comunque di valorizzare questo nostro investimento in Metroweb. Metroweb ha delle competenze che sono abbastanza uniche in Italia, perché è l'unica società che ha fatto un network in fibra sulla città di Milano, e quindi ha delle competenze che devono essere sicuramente utilizzate, che possono essere valorizzate. Quindi Metroweb resta strategica nel contesto di Cassa Depositi e Prestiti? No, rimane strategica nel contesto di fare l'investimento per avere, perché l'Italia abbia un'infrastruttura di banda altro ecco, lato. No, ecco, dico... Poi, dal nostro punto di vista, noi essendo una società che deve avere un business model sostenibile e profittevole, dobbiamo anche valorizzare il nostro investimento in Metroweb. Quindi è possibile una cessione? Si è parlato di cessione a Telecom, siamo aperti a tutto, insomma. Stiamo parlando con tutti, siamo aperti a tutto e esamineremo al momento opportuno la cosa migliore da fare alla luce del programma di governo di fare gli investimenti in banda ultralarga e alla luce della valorizzazione del nostro investimento in metro. Ecco, ipotesi di ulteriore privatizzazione. Lei ha detto abbiamo un 20% privato, abbiamo un 80% pubblico. Si è parlato tempo fa, per esempio, di una privatizzazione di SACE. È ancora nelle carte oppure per ora no? No, oggi non è nelle carte, anche perché SACE non è privatizzabile lo stato in cui è oggi, non perché non guadagna, anzi guadagna molto bene SACE, ma perché ha altri bisogni. Quindi SACE oggi come oggi è al 100% nostra, rimane, anzi noi la potenzieremo, perché faremo di SACE il polo dell'export. Oggi in Cassa Depositi l'export lo supportiamo con tre cappelli diversi: SACE, Simest e la stessa Cassa. Nel nostro nuovo piano industriale che abbiamo approvato a dicembre abbiamo detto chiaramente che SACE diventerà la porta per l'export italiano, in maniera tale da eliminare anche confusioni che esistono sul mercato, e SACE diventerà lo strumento per migliorare e continuare a favorire l'export italiano. Quindi potrà indebitarsi indipendentemente in modo autonomo? Per... Lo fa. Ecco, ultima cosa, le banche. Abbiamo avuto delle piccole banche in difficoltà, molta polemica in Italia. Che percezione ha avuto qua? Se ne è parlato quando le ha incontrato gli investitori? Ci sono degli americani interessati a entrare nel nostro settore finanziario, oppure voi stessi a svolgere un ruolo per risanare queste istituzioni di credito che magari hanno solo un problema di breve termine? Beh, prima di tutto non è il nostro ruolo quello di finanziare il sistema bancario. Per noi il sistema bancario è un partner. Noi le cose dobbiamo farle insieme al sistema bancario, ma non siamo una controparte del sistema bancario. Quindi per quanto ci riguarda come Cassa, come oggi non abbiamo nessun ruolo nel salvare il sistema bancario italiano, se deve essere salvato, perché tra l'altro bisogna ancora... No, io parlo di quelle banche più piccole ovviamente, non di sistema. Salvate, sono già state risolte le quattro banche, il governo è intervenuto molto velocemente usando per la prima volta lo strumento del fondo di salvaguardia. Oggi quelle quattro banche sono pulite, perché tutta la parte bad bank è stata spinoffata, quindi sicuramente Roberto Nicastro, che è adesso responsabile della gestione di queste quattro banche, cercherà di mettere sul mercato e di venderle più velocemente possibile. Non credo che ci siano investitori americani interessati a rilevare le banche, perché queste quattro banche sono quattro banche locali, regionali, e non credo che ci sia interesse da parte delle grandi banche americane di comprare delle piccole banche regionali in Italia, per cui questo sarà qualcosa che sarà gestito all'interno del mercato domestico italiano. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che non vive più tempi difficili ma resta pur sempre la nuova frontiera. Potrete continuare a trovarli su america24.com, seguitemi su Twitter, @MarioPlatero. Ed eccoci alla canzone del giorno. Beh, ho scelto Lazarus di David Bowie, che ci ha lasciato ieri. Questo brano fa parte dell'ultimo album Black Star, uscito un paio di settimane fa. Il video di Lazarus è l'ultimo, pubblicato il 7 gennaio. Possiamo considerarlo il video con cui Bowie saluta il mondo, i suoi fan, ai quali spiega la sua malattia tenuta nascosta fino alla morte, un brutto cancro. Nel video c'è la personificazione del tumore, della morte, che sbuca da sotto il letto. Significativa la scena finale in cui Bowie retrocede nell'armadio, una sorta di cassa da morto, e sparisce. Un addio al suo pubblico e alla vita. Look up here, I'm in heaven. I've got scars that can't be seen. I've got drama, can't be stolen. Everybody knows me now. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going!